Volevo chiedere se la gara di domani può essere interpretata come una prova generale anche in prospettiva Champions. Beh, la Juve è una squadra della Madonna, per cui domani facciamo il primo test. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Leipzig, Lipsia, Atletico Madrid, eccola qui. Real Madrid, Manchester City. Contro? Olympique Lyonnais, Juventus. Wow. Juventus o Lione? Dunque, se la Juventus passerà il turno e rimonterà l'1-0 contro il Lione, affronterà i quarti di finale la vincente di Real Madrid. Giocherà una finale nei quarti di finale. Napoli, Barcellona, Chelsea e Bayern München. Chelsea e Bayern Monaco vuol dire Bayern Monaco. Vuol dire PSG Atalanta. Esatto. E quindi vuol dire Paris Saint Germain Atalanta. Da adesso in poi comincia a andare in pensione per una partita così straordinaria, con uno squadrone. Speriamo di fare bella figura. Lei fino al 23 agosto però non aveva preso impegni, a prescindere dal sorteggio. No, ho preso le vacanze. Internazionale. Ecco, il momento dell'Inter. Inter Getafe, vedremo dove. Verrà giocata quella partita. Last Rangers, Paia Leverkusen. Attenzione però, perché per la Roma si complica, è stata sorteggiata l'eventuale semifinale, la Roma se dovesse passare troverà il Manchester United, quindi davvero non è sorteggio per le italiane oggi. Confesso che sono un po' anaffettivo quanto al calcio, però mi sono emozionato soprattutto, non vedo l'ora, sono eccitato come una scimmia all'idea che dal 5 di agosto fino al 23 ogni sera c'è una partita senza domani, c'è una partita secca per le italiane in Italia. Allora, per radio mi viene difficile farvi vedere il grafichetto di tutte gli incroci e le cose, mi auguro lo sappiate, ve lo riassumo così. La Juventus troverà in Portogallo una specie di via crucis, perché se passa il turno con il Lione, facciamo finta che lo passi, incontrerà la vincente di Real Madrid Manchester City, cioè il peggio del peggio. Con il City che ha vinto 2-1 a Madrid si deve giocare la partita di ritorno. Dovendo saltare anche questo ostacolo, incrocerebbe la vincente di Napoli Barcellona, speriamo il Napoli, contro la vincente di Bayern Chelsea, qui passa il Bayern perché che ha vinto 3-0 all'andata, quindi facciamo che la Juventus così a occhio dovrebbe battere il City o il Real e poi il Bayern Monaco per arrivare in finale. L'Atalanta incrocia il Paris Saint Germain e non è male, secondo me. Sono curioso di sentire la vostra opinione. 800240024. La vincente di Atalanta Paris Saint Germain gioca contro la vincente di Lipsia Atletico Madrid. Quanto all'Inter e alla Roma vi dico tutto tra poco, ma intanto saluto Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Ciao Filippo. Ciao, buon pomeriggio. E chiedo un radio tweet a Pierluigi Pardo. No, andiamo sulla sostanza delle cose. Vabbè, il radio tweet è che siamo stati sfigati, però ma si arriva a un momento in cui la sfiga è un fattore, sì, del gioco. Dire, soprattutto con questo tipo di formula, quindi con queste partite in gara secca, bello così, certo, poi è ovvio che Atletico Madrid e Lipsia non sono, come dire, infelici di doversi incontrare nei quarti di finale. Poteva andare meglio, però siamo arrivati a un punto in cui bisogna battere tutti, non puoi pensare di vincere la Champions o l'Europa League senza fare le imprese, e quindi condivido con te il senso di eccitazione con questo. Sì, io non puoi condividere con me il senso di invidia che rasenta l'odio che provo per te che andrà in Portogallo a commentare queste partite. Questi però sono problemi miei. Io agosto sono qui a parlare con te che sei in Portogallo tutti i giorni, quindi anche perché informazione di servizio, tutti convocati, ovviamente va tutto con Barisoni. Filippo Maria Ricci da Madrid sembra l'allenatore del pallone, lo so. No, sì, tutti i convocati comunque non si ferma, tutto luglio, tutto agosto, eccetera eccetera. Beh, Filippo, dimmi la tua invece su questo sorteggio. Io mi limito a riportare quella del comune amico Zampini, che ha detto, juventino come sapete, che ha twittato: a questo punto posso serenamente prenotare le mie vacanze in Grecia, in un impeto di ottimismo. No. Allora, io ho diviso così, ho fatto un calcolo: da una parte del tabellone ci sono 26 Champions vinte, dall'altra zero. Esatto. E questo è un'ulteriore suggestione. Sì, le quattro squadre che sono dalla parte di quelli dello zero non hanno mai vinto la Champions, e una arriverà in finale, no? Per cui è un tabellone molto diviso, cioè si può parlare, sì, si può vedere la sfiga o no, però diciamo in una stagione molto peculiare, molto strana, ecco, è arrivato anche questo sorteggio, sicuramente poco equo, no? Perché hanno messo tutti quelli che hanno l'abitudine a vincere la competizione da una parte e gli altri dall'altra, e quindi bene, perché avremo sicuramente qualcuno con delle grandissime motivazioni che arriverà in finale a giocarsi un titolo che non ha mai vinto. La manina dell'amico Paolo Sosa, non così amichevole contro la sua ex Juventus presa a sberloni. No. Senti, ma il Real di oggi può battere il City? Può ribaltare la storia a Manchester? Allora, il Madrid, diciamo, Zidane ha fatto un altro miracolo, no? Prima arriva dopo Benitez, vince tre Champions in 2 anni e mezzo, una Liga, no? Poi se ne va sul più bello. Torna in un momento disastroso, due allenatori, insomma l'anno scorso più o meno ha superato, sì. E adesso va a vincere questa Liga, hanno, no, 4, un punto di vantaggio, giocano stasera, possono essere 4, comunque l'unica squadra che ha vinto tutte le partite da quando, diciamo, post lockdown, quindi una squadra in forma, è riuscito di nuovo a rigenerare, poi sono sempre gli stessi più o meno, no? Perché i giocatori più o meno sono quelli, è riuscito a rigenerarli. Io lo vedo, per me è un cliente sempre pericoloso, però attenzione, ha perso 2-1 in casa e giocherà al ritorno senza Sergio Ramos, che è squalificato, per cui ovviamente è difficile. Io continuo a vedere il City favorito, però il Real Madrid è sempre lì, sappiamo come, no? Quanto sta bene in Europa, e Zidane ancora non è mai stato eliminato dalla Champions, sì, nella sua breve carriera, e per cui vedremo. Io continuo a vedere il City favorito per la vittoria finale fin dall'inizio, ovviamente questo è bene. Beh, perché Bayern, i pronostici non ne indovino uno dai primi anni 70, quindi va benissimo così. Più che altro volevo dire a Pierluigi, ho guardato i sorteggi, molto interessato, con il signor Cruciani, che ovviamente non se ne perde uno di sorteggio, che sono il sale, uno dei motivi della sua esistenza. Mi faceva notare che dal 5, quando si giocano le partite degli ottavi di Europa League, fino al 23 di agosto, si gioca tutti i giorni, ogni giorno, con una partita secca, che anche guardare un quarto di finale di Europa League in partita secca, specie di mondiale, Sì, c'è una definizione che è il paradiso, ecco, c'è una definizione è il paradiso, con il piccolo grande dettaglio ovviamente dell'assenza del pubblico, che toglie tanto, perché l'hai visto l'altra sera, per esempio, in occasione di Milan-Juve, al di là del risultato, che partita sarebbe stata col pubblico, poi 4-2, può vincere uno, può vincere l'altra, però voglio dire, una partita come quella, meravigliosa dal punto di vista delle emozioni, immaginatela con 80.000 persone. Ti faccio il primo esempio che mi viene in mente, no? E quindi questo non è assolutamente un dettaglio, ne abbiamo parlato spesso, però sì, sul resto sono dell'idea che sia qualcosa di simile al paradiso, perché quest'anno questo lockdown ci regala un agosto che è il massimo, e che forse per chi ama il calcio di club è quasi più bello di quando ci sono i mondiali e gli europei, nel senso che è veramente una, tanto che è un inedito assoluto, tanto che folleggiando si diceva: perché non farlo tutti gli anni a giugno? Sì, ma guarda, io a parte tutto ne parlavo forse con Uva qualche tempo fa, proprio a tutti i convocati, io penso che non diventerà la regola. Però insomma, se dovesse esserci un grandissimo successo, non penso una Final Eight, perché una Final Eight di fatto ti toglie comunque un sacco di partite, ma una Final Four è una soluzione da non scartare, ma è un po' di fantacalcio, non sto dicendo assolutamente che lo faranno, anche perché sono bellissime pure, pensa alle semifinali dell'anno scorso, pensa sì. Liverpool-Barcellona andata e ritorno, lo so, sono bellissime, ma questa però, qui è un'altra la cosa Final Four, la Final Four secondo me non è una cosa così assurda, così peregrina, poi nel basket sappiamo che c'è in Eurolega è un evento pazzesco, Pierluigi, tu immaginatela ovviamente tornando alla normalità con i tifosi, che cosa significa avere a Praga, a Budapest, ad Atene, a Milano, dove ti pare, per una settimana, 10 giorni, 4 tifoserie, tantissime, insomma ha un suo fascino, ecco. Ha un suo fascino. E poi si snellisce il calendario, che è tasato, sì. E, per esempio qua fanno la finale, le finali della Coppa di pallacanestro le fanno a 8 così. Per esempio quella potrebbe essere un'altra idea di questa Coppa Italia, no? Sempre un po' bistrattata, comunque considerata a volte meno, a volte di più. E qua per esempio nel basket fanno le 8 squadre tutte basket. Insieme. Anche noi nel basket lo facciamo. Ecco. No, ma cioè, questo lo Coppa Italia, Coppa Italia, sì. Sì, esatto. Sì. Questo lo si fa. Arrivato uno dalla Spagna. Tu Filippo non lo sai perché non sei italiano come noi, però esatto. In Italia il basket si fa la fine. No, a parte le battute. Benissimo. Però, in realtà questo tipo di formula è una formula interessante per rivitalizzare delle competizioni deboli, no? La Champions League non ne ha minimamente bisogno, no, è chiaro. Però ed è chiaro che le partite che tu perdi, che comunque perdi delle partite, in qualche modo le devi recuperare. Però vediamo, insomma, perdi due quarti, perdi quarti il prossimo anno con le semifinali, col calendario così intasato. No, che no, la ma, Champions sai, League ma questo però Filippo, questo potrebbe avere League, adesso stiamo divagando mentre vorrei tornare a commentare il sorteggio, stiamo divagando amabilmente, però questo potrebbe avere pesanti e interessanti riflessi anche sulle competizioni interne, perché quest'anno si è detto, vabbè, ha detto male alla Lazio che aveva un impegno solo a settimana, bene alla Juventus che si sarebbe dovuta destreggiare tra a Napoli, all'Atalanta, all'Inter, alla Roma, che avrebbe dovuto fare lo slalom con gli infrasettimanali di Coppa. È chiaro che un finale come questo toglie questi snodi e può avere riflessi importanti anche sulle competizioni interne. Invece, sempre il suddetto signor Cruciani prima mi diceva che non so dove l'abbia sentito, che potrebbe consumarsi un nuovo matrimonio tra Guardiola e il Barcellona. No. Quello no, che ho detto io. Adesso no. Ma che cosa dici? No. No, impossibile. Anche se attenzione, perché c'è questa dirigenza è impossibile. Poi l'anno prossimo, poi bisogna sempre vedere in che ruolo anche. Però adesso è impossibile. Finché c'è questa la dirigenza attuale ha comunque un altro anno di mandato. Poi dovranno andare via. E ci saranno elezioni. Allora poi si vedrà. Può presentarsi. Questo è, però per il momento no. È chiaro, tutte sono suggestioni legate anche all'eventuale squalifica del City. No? Questo bisogna vedere. Però tra l'altro il City al momento no. È al destino del Barcellona, che è molto probabile che cambi, in questo momento direi che appunto, però, buono, però ci devono essere elezioni anticipate. Sì. Adesso elezioni anticipate non per ora non sono alle viste. Per me ci vorrebbe, se il Camp Nou fosse stato aperto si poteva arrivare alle elezioni anticipate, perché il verdetto sarebbe stato impietoso, cioè si andava da una pagnolata all'altra, però col Camp Nou chiuso per me alla fine riescono a vivacchiare. Certo è che se vogliamo, già che siamo in tema, il Barcellona c'è, cioè il Napoli, quindi speriamo che esca subito, se no comunque dopo c'è il Bayern Monaco, e insomma la vedo dura per il Barça vincere un'altra Champions League, quindi è un altro anno che si perde, diciamo che non è la favorita in quella... il tabellone è completamente squilibrato, al di là delle 26 coppe dei campioni a zero, ma è completamente squilibrato. E la buona notizia, io lo so che il Paris Saint Germain non è facile, però ragazzi, l'Atalanta, vabbè, non dico niente. Anche perché hai visto Percassi, no? Era, insomma, faceva fatica, è chiaro che è una festa comunque essere lì. L'abbiamo sentito, no? Ad agosto non ho preso impegno, ho preso le vacanze, probabilmente sappiamo dove andrà. In Algarve, no? È chiaro, come tutti. Ci mancherebbe altro. Però no, tutto sommato, io fossi nel Paris Saint-Germain, che peraltro non gioca da un'era geologica, come sapete, in Francia tutto fermo, giocherà. Sì, torneranno a giocare una partita, la finale col Saint-Étienne, una partita, sì. Però voglio dire, questo, tra l'altro, vale per la Francia in maniera particolare, ma in qualche modo anche per la Germania. Questa discrepanza nei calendari non va sottovalutata, e tutto sommato io spero che noi in Italia, con tutte le nostre inefficienze, questo giro l'abbiamo fatta buona, perché ho la sensazione che le squadre arriveranno a fine campionato pronte per le coppe europee, mentre per esempio in Germania, con la loro ansia di efficienza di ripartire a metà maggio, alla fine poi il tono agonistico cala, sì, può fare amichevoli, può fare i richiamini, può fare, però insomma, tornando alla Atalanta, io penso, sì, guarda, ne ha appena parlato Setién, se vuole, che sì, lui ha detto che, perché il Barcellona finisce il 19, no? Sì. E la partita, esatto, quindi è due settimane dopo col Napoli, anzi qualcosa in più. E dice cercheranno di fare delle amichevoli, però appunto non ha risposto, dice non so se ci farà bene riposare, perché questo è tutto da vedere, perché magari il Napoli può anche arrivare stanco teoricamente, no? E continuare a infilare una partita dopo l'altra può essere adesso lo dico, Atalanta, Napoli, Inter, Roma e probabilmente anche la Juve, perché bisogna vedere come si evolve il campionato, ma se la Juve riesce a chiudere le pratiche in tempi ragionevoli, noi potremmo avere una situazione in cui le squadre italiane che giocano le coppe europee hanno un finale di stagione perfetto, senza adrenalina clamorosa, perché mi pare che si vada verso quelle 4 in Champions e quelle altre 3 in Europa League, con buona pace ovviamente di Verona, Sassuolo, sì, Parma, queste sì, realtà fantastiche che ci proveranno fino all'ultimo, e quindi poi tutti potresti trovare veramente in una condizione in cui puoi prepararti, un riposo attivo, dici tu. Esatto, che è la condizione migliore, giochi, è la condizione migliore. Secondo me è la condizione migliore in assoluto, cioè giochi, puoi fare turnover, certo, ti alleni, hai l'intensità. Hai l'avversario, hai l'agonismo, certo, sono d'accordo. Però non hai non hai lo stress del risultato. Allora ragazzi, dobbiamo fermarci un istante, però state lì, ci sono anche ascoltatori in linea, Danilo e Piero, tra poco li faremo parlare. Vi ricordo soltanto, l'hanno ancora citato, per chi non lo sapesse, anche qui il grafico non si può far vedere per radio, però se l'Inter salta l'ostacolo Getafe, partita secca, incontra la vincente tra Rangers e Leverkusen, quindi fate conto, Leverkusen quinta forza del campionato tedesco con un gran giocatore come Havertz, e secondo me non è una buona notizia. La Roma, se salta il Siviglia, incontra la vincente tra Wolverhampton e Olympiacos, 1-1 all'andata. Quindi sempre la stessa Roma incrocerebbe lo United, se insomma molto probabilmente, facciamo così, mentre l'Inter dall'altra parte o lo Shakhtar o il Wolfsburg contro o l'Eintracht o il Basilea, che peraltro ha vinto 3-0 all'andata, quindi scriviamo pure Basilea. So che per radio è difficile, complicato spiegare, però insomma basta aprire internet, così ragioniamo con più calma. Ci fermiamo un istante. Il Paris Saint-Germain con l'Atalanta dovrà sudare 8 camicie, non 7, 8 con la squadra lì, l'Atalanta. Forza Atalanta! Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Ritengo Conte un buon allenatore, alquanto pagato, però soprattutto sopravvalutato. Quest'anno non ha gestito una partita che sia una in maniera normale. E l'Inter ha fatto il mercato più costoso di tutta la Serie A. La sua stagione è fallimentare, se ne può anche andare domani mattina. Toccata piano l'ascoltatore via WhatsApp 349-238-6666. Beh, anche ieri sera l'Inter non benissimo a Verona, nel primo tempo soprattutto, nel finale pure, due gol subiti, e questa è ormai una regola. Danilo, buongiorno. Oh, buongiorno, io volevo comunque parlare dell'Inter, quelle che secondo me ci sono due difetti, diciamo, grossi. Allora, uno è ancora, diciamo, abbastanza cronico, che è la mancanza in società di un comandante, cioè una persona che tenga sotto controllo i giocatori, gli allenatori, diciamo gli uomini di mercato, i talent scout, eccetera, e anche per fare in modo di evitare gli errori che sono stati fatti. Parliamo del caso Schneider, non aver dato un anno in più a Stramaccioni, diciamo aver preso allenatori tipo Benitez e via dicendo, non aver mandato via Spalletti quando regalò la partita alla Juve due anni fa. Stiamo facendo la cronaca dagli anni 50, Danilo. In più c'è un altro problema grosso, è in panchina, che Conte non è un allenatore di livello, è un allenatore mediocre secondo me, che non ha ancora dato un gioco a una squadra, che riesce addirittura con la sua difesa 3 a mettere in difficoltà gente come Skriniar, De Vrij e Godin, e che quindi non è degno di stare in una squadra come l'Inter e dovrebbe dare dimissioni. Okay. quadro sereno. Stramaccioni le piace, no, grande rispetto per Stramaccioni, però voglio dire, un anno in più a Stramaccioni, insomma, non lo so. Vogliamo mandare via subito Conte, diamo un anno in più a Stramaccioni, va bene tutto, per il resto tutto bene. No, non dire, non ho niente contro Stramaccioni, che fra l'altro mi sta pure molto simpatico, però voglio dire, mi sembra che ci siano un po' troppe certezze. La verità è che la vita, il calcio, è una sorpresa continua. Poi, detto questo, io sull'Inter, la partita di ieri conferma tutti i dubbi e le inefficienze di questo periodo. Questo non c'è discussione. Eriksen che entra all'87esimo non è colpa sua, non è colpa di quasi Conte, punitivo, c'è qualcosa che non va, quasi punitivo va, quell'ingresso all'87esimo in un momento come questo, una squadra che comunque ha poca qualità, che è molto prevedibile, che veramente secondo me deve fare un monumento a Lukaku, e non solo perché mi sta particolarmente simpatico. Vero, verissimo. È il giocatore, comunque è l'unico giocatore che dopo 9 mesi, ecco, questo è un vero tema. Poi da qui a dire che Conte se ne deve andare, no, io continuerei tutta la vita con Conte, gli darei ancora fiducia, però in maniera costruttiva e anche con delle critiche, perché non c'è alcun dubbio che in questo momento in questo 2020 la squadra è molto fragile e piuttosto prevedibile. Quindi, io continuo a pensare, Pier, che non puoi prendere quei gol, i gol che ha preso anche ieri sera l'Inter, sia il primo che il secondo. Piero da Roma. Sì, buongiorno, senta. No, volevo fare visto lì il tabellone, sì, diciamo, dei sorteggi, il Manchester United è stato molto favorito, diciamo, alla via spianata, a vedere. Vabbè, la Roma mi auguro che passi l'ottavo, perché comunque anche lei non è un brutto quarto, l'Olympiacos col Wolverhampton. Sì, in compenso non ha un bellissimo ottavo. Guarda, interrompo anche perché siamo quasi in chiusura di questo blocco, e volevo sentire Filippo Maria Ricci sulla doppia avversaria del preliminare al gran finale per l'Inter e per la Roma, Getafe e Siviglia. Sì, situazione molto differente. Il Getafe ha vinto una partita delle ultime 9, qualcuno la pareggia, quindi continua a mantenere era in zona Champions, rischia di star fuori anche dall'Europa League, quindi insomma non è una squadra in forma. Vedo insomma l'Inter è superiore sicuramente, ha perso anche 3 giocatori che sono andati via perché insomma qualcuno al 30 giugno ha fatto le valigie, e il Siviglia invece è una squadra che sta bene, e è in forma, e in questo caso sì, vedo il Siviglia superiore alla Roma, anche per tutte le difficoltà della Roma in questo momento, quindi vedo l'Inter da una parte e il Siviglia dall'altra. Senti, posso dire che se l'Atalanta salta si gioca tra un mese sì, certamente. Sì. E l'Europa League secondo me, a differenza della Champions, ma proprio per definizione, essendo l'Europa League la competizione dell'alta borghesia del calcio europeo, insomma le distanze sono più leggere, sottili, più sottili, molto relative. Con la partita secca, figuriamoci, giocando le sale senza pubblico al quadrato, non sappiamo ancora dove si gioca, vero? Non ci sono, no? Non si sa dove si gioca, no, ancora, mi sembra, no? Dell'Europa League? No, sì, queste due partite qua? No, non conosco quale delle 4 sedi le ospiterà. Senti, ma per chiudere con te, Filippo, se l'Atalanta salta il Paris Saint-Germain, Neymar e Leonardo e tutti quelli lì, posso sperare, posso pensare qualcosa di meraviglioso, dato l'Atletico Madrid che secondo me batte l'Ipsia, che tra l'altro non avrà Timo Werner e che non mi sembra irresistibile? Sicuramente, cioè, sarebbe tanto già una semifinale Atletico-Atalanta sarebbe meraviglioso, già questo, come tu prima si parlava, ho sentito parlare di paradiso, ecco appunto, confermiamo, tutto paradiso, tutto meraviglioso, per cui auguriamoci intanto questo, sarebbe già bellissimo vedere, poter parlare di un Atletico-Atalanta, sarebbe una partita inedita per giocarsi l'entrata in finale di Champions League, dai, meraviglioso. Tutto, l'Atalanta può far tutto, può sperare qualsiasi cosa, poi dopo magari gli va male, trova un Neymar in giornata di grazia, fa 3 gol e va bene. Ci sta, però io non vedo nessun problema, nessun ostacolo tra virgolette, insomma, fa il suo gioco, lo fa sempre contro chiunque, a volte va bene, a volte va meno bene, però l'abbiamo visto qua a Valencia che partita ha fatto, e da lì in poi ripartiamo da lì, da dove ci eravamo lasciati, no? Sì, assolutamente, assolutamente, ripartiamo da lì. Grazie Filippo, ciao. Grazie a voi, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Certo che Pierluigi, secondo me, diciamolo sottovoce, Paris Saint-Germain tra le grandissime, se dovevi prendere una grandissima, e forse per l'Atalanta era anche ora, ed è anche bello, beh, Paris Saint-Germain forse è quella che si adatta meglio alla banda di pirati di Gasperini. Sì, però sì, sì, assolutamente. Beh, io penso che la partita secca sia un'ulteriore possibilità, nel senso che aumenta nei 90 minuti la possibilità di fare l'impresa, e penso che Paris Saint-Germain sia la piccola delle grandi, o la grande delle piccole, insomma, decidi tu, forse la piccola delle grandi, perché ha una dimensione, un budget, e devo dire che sarà anche fortunato Paris Saint-Germain, detto tra noi, come sarà fortunato l'Atletico Madrid. Quelle quattro del lato destro del tabellone sono state sicuramente fortunate. Però insomma, mancano 40 giorni, è bello già sapere che queste partite ci saranno, e poi vediamo. Però insomma, la partita secca aumenta secondo me le possibilità. Certamente. Questo lo dico da quando si è saputo che c'era la partita Final secca, aumenta campo neutro e vuoto, figurati un po'. Sentito una cosa, l'unica cosa che mi fa un po' strano è che l'Atalanta corre tantissimo e spero che abbia benzina fra 40 giorni, ecco, tutto qua. Certo, perché è veramente in una condizione incredibile. Quindi, sì, congeliamola, mettiamoli in freezer. Oggi secondo me Atalanta Paris Saint Germain sarebbe 50-50. Sì. Ciao Pier. Baci. Ciao. Allora, ci fermiamo per la borsa, poi motori, perché ci sono un sacco di cose da dire al di là delle prime prove bis in Austria. I due rami del tabellone di Champions League sono decisamente sbilanciati, veramente questa formula fa schifo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Sono contento di tornare in Formula 1, tornare anche con la Renault, con la squadra che ha avuto grandi successi. E al 2018 volevo respirare un po' fuori dalla Formula 1, ero molto stanco di tante cose e volevo provare altre categorie. Ho respirato, ho avuto la grande fortuna di vincere anche un altro mondiale, delle gare molto importanti, e adesso sono pronto sia fisicamente che mentalmente per tornare. At this stage made a decision yet, so I'm not taking any pressure. Obviously we've all seen that Fernando is coming back, which I think is good for F1. Independent from that, obviously looking at myself, I'll take the time that I need to take a decision for myself first. Everything is an option at the moment, carry on, have a break, or retire. If Red Bull offered you a drive, you would take it? I think it's a winning car. I'm, as I said earlier, I'm here to compete, I'm here to win, so probably the answer would be yes. Alonso che torna, Vettel che va, chi non si sa dove, perché sì, a Red Bull mi piace, peccato che lui non piaccia alla Red Bull. Allora, è un giorno bellissimo, non solo perché abbiamo l'idea precisa di un meraviglioso agosto di calcio, ma perché abbiamo l'ufficialità del fatto che l'Italia sarà il paradiso dei motori dal 6 di agosto, Monza, per passare poi al 18, al 13 con Mugello, Formula 1, Misano, Moto, poi di nuovo il weekend successivo a Misano, vabbè, più di così mi viene voglia di cantare, non sono capace. Quindi saluto Umberto Zappelloni, ciao direttore. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Davide Valsecchi, vado subito da lui perché è in prestito con diritto di riscatto a Sky che scade tra 3 minuti. Ciao Davide. Ciao a tutti, un abbraccio. E può esserci anche Imola in Formula 1, perciò siamo pronti a fare una festa incredibile. Sì, no, no, non stiamo più nella pelle. Senti, Libere 1 di oggi, Perez il più veloce di tutti su una macchina che cammina e come se cammina, davanti a Verstappen che è stato grande assente nella prima corsa, ma che secondo me, te lo dico sottovoce, potrebbe essere il favorito di gara 2 in Austria. Sì, ti dico, dipenderà anche dal meteo, perché favorito per la qualifica non sono sicuro, perché con i bombardoni delle Mercedes alla fine qualifica, se la pista sarà asciutta, ne verranno fuori bene ancora. Non ci credo che perdano mezzo secondo in un weekend, capito? Però ti dico che domani danno previsioni con pista bagnata e allora lì Verstappen ci tirerà fuori qualche sorpresa. Per il resto, Perez, non sottovalutiamolo, perché la prima gara ha fatto sesto con una strategia sbagliatissima del suo team negli ultimi giri. Il suo compagno ha avuto problemi tecnici, ma quel fatto che la Racing Point dicevano che era la coppia spiccicata della Mercedes dell'anno scorso inizio a convincermi, perché dopo il primo weekend che andavano bene, stati davanti ad entrambi le Ferrari in qualifica e qua che sono partiti così bene, Perez è uno di quelli che alla fine del campionato può arrivare nel primo 5. Sì, quanto alla Ferrari, Vettel decimo, Leclerc dodicesimo, secondo me non ci resta che andare a accendere qualche cero nel santuario più vicino. Aspetta però, perché abbiamo il pilota che è più in forma di tutti secondo me, perché Leclerc il weekend scorso ha fatto qualcosa di atomico con un mezzo che non era all'altezza. Dicono dal team che stanno lavorando con questo nuovo fondo, con questa nuova ala anteriore per metterlo nelle condizioni di andare meglio. Fino adesso i risultati non si sono visti, dicono di essere però più veloci a centro curva e perciò di avere guadagnato qualcosa. Io dico che in questo momento la vettura non è all'altezza del pilota che hanno, perché il pilota che hanno potrebbe lottare benissimo per il mondiale. Bisogna dargli alla svelta una macchina che gli permetta di esprimere se stesso, capito? Senti Davide, ti chiedo ancora questo, poi commento tutto quanto con Umberto che ci sta ascoltando. Salutamelo, per favore. È qui. Ciao Davide. No, perché Umberto, devo restituire, sennò mi tocca pagare il riscatto a Sky. Esatto, è pesante. Pesante, pesantissimo, non ce la faccio. Invece, Alonso che torna, non ha mai smesso di essere un pilota nemmeno per un giorno della sua vita e fa 39 alla fine di luglio. Sì, gran sorpresa, non me lo aspettavo. Perché pensavo che Vettel avesse più probabilità col fatto che ancora in attività, pensavo avesse più probabilità di trovare posto, ma la realtà dice che Alonso non ha mai avuto un anno down in Formula 1, cioè non è mai stato giù, è sempre stato forte, ha sempre battuto i suoi compagni di squadra anche nell'ultimo periodo in cui non andava la McLaren. E perciò bella scelta da parte di Renault, secondo me quello torna e ci fa ancora divertire, ecco. Mentre per Vettel sentivo il tuo la tua introduzione, sono un po' preoccupato perché mi sembra che lui voglia tanto, ma gli altri dopo il primo weekend non lo vogliono troppo. Bravo. Questa è la sensazione. L'idea è quella lì. 14:44, 20 secondi, ti restituisco a Sky e non pago riscatto. Grazie Davide, a presto. Un abbraccio, ciao, alla prossima, ciao ragazzi, ciao. Divertitevi. Umberto, vieni con me a accendere i ceri? Non c'è altra via d'uscita, perché i miracoli non è che puoi farli tutte le domeniche e avere la fortuna che hai avuto domenica scorsa, perché insomma tra le tre safety car, tra i problemi di affidabilità e di strategia di chi era più veloce in pista, insomma Leclerc è arrivato sul podio per grazia ricevuta e per meriti suoi, non della macchina, assolutamente. Lui stesso ieri lo ha ammesso in conferenza, ha detto non siamo da podio, ci sono come minimo quattro vetture più veloci di noi, cioè le due Red Bull e le due Mercedes. La speranza è che le novità portate in pista da questa mattina possano almeno permettere di stare davanti alla Racing Point e alla McLaren, insomma. Però stamattina non è loro ne hanno parlato bene, però i tempi il cronometro non li ha ancora verificati fino in fondo, quindi vedremo. Sì, senti, se condividi la sorpresa di Valsecchi sul ritorno di Alonso? Se ne parlava da tempo. Lui è sicuramente, secondo me, è ancora uno dei top come conduzione in gara, come legge le gare Alonso e come attacca in gara gli avversari, sia i doppiati che i non doppiati. Alonso ce ne sono poche, insomma, è superiore a Vettel da quel punto di vista. È inferiore come uomo squadra del Vettel prima maniera, è inferiore in qualifica dove Vettel è sempre stato superiore a parte in quest'ultimo periodo. Certo, Vettel gli ha portato via il posto in Ferrari e adesso è lui che porta via il posto a Vettel in Renault. È tutto un susseguirsi di questo, perché a questo punto non so se Vettel si accontenterà di andare alla Racing Point l'anno prossimo. Forse la cosa migliore è starsene a casa un annetto e poi magari tornare. Beh, quello che tutto sommato è quello che ha fatto Alonso. Esattamente. Che però Alonso non ha mai mollato il volante. Non ha mai mollato, perché Alonso è andato a vincere Le Mans le 24 ore del mondo, è andato a divertirsi alla Dakar, ha provato un'esperienza anche se sfortunata a Indianapolis, insomma non si è mai assolutamente fermato, credo che si sia divertito anche moltissimo. Sì, sì, io lo ammiro moltissimo per quello che ha fatto. Umberto, stai con me perché abbiamo il traffico, ma poi torniamo, aggiungiamo a questi discorsi quegli altri con Valentino, che quello sì mi sorprende, non tanto sul fatto che abbia inchiostrato un nuovo contratto con la Petronas, quanto che l'abbia fatto per due stagioni, mica una. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Umberto Zaperoni, ci ha raggiunto anche Roberto Ungaro, che saluto, per parlare di Valentino, ma anche di Dovizioso, di un mondiale, di un motomondiale che inizierà tra una settimana e che, ripeto, a settembre sarà grande protagonista di quella festa straordinaria italiana dei motori. Ciao Roberto. Ciao, ben ritrovato. Ciao, ciao Carlo, ciao Umberto. Abbiamo accennato con Umberto al discorso di Valentino. Umberto, se non siamo sorpresi del ritorno di Alonso, siamo sorpresi di quei due anni firmati da Valentino? Due anni sì, due anni sono al di là di quello che pensavo, perché che Valentino non volesse chiudere con questa strana stagione che arriverà post-Covid ci stava, insomma. Che volesse provare a misurarsi ancora una stagione in un team satellite, che poi però per lui sarà un team praticamente identico a quello che... Avrà l'M1 ufficiale. Quest'anno avrà la macchina in modo ufficiale, avrà una squadra su misura, insomma. Mi sorprende che abbia... firmato per restare in pista fino a 43 anni, insomma. Io pensavo che lui volesse affrettare il suo passaggio alle gare di endurance, alle gare su quattro ruote. Evidentemente si diverte ancora come un matto, ha capito che il business delle moto comunque va coltivato in un certo modo, lui ha una squadra a cui badare, la VR46 è una cosa, è farlo se sei ancora pilota dentro il circus, una cosa è farlo soltanto da manager, quindi sommi queste due cose e va avanti. Certo, lui Alonso, che più o meno hanno la stessa età, oltre che gli stessi gusti femminili, visto che sono passati l'ultima fidanzata, hanno intenzione di andare avanti e di divertirsi. Io devo dirti, è meglio che ci sia, che non ci siano soltanto ragazzini, perché i ragazzini ti divertono, troppo ogni tanto la saggezza sua, di Alonso, come di Hamilton, serve al mondo, anche la personalità, anche la personalità, la capacità di essere personaggi. No, l'altro giorno, tra l'altro, Roberto, non più tardi di mercoledì, cazzeggiavo al telefono con Carlo Pernat e lui mi diceva: ma Valentino non ha ancora firmato, non so, secondo me firma, però magari vuole aspettare le prime 3-4 corse di questa stagione, vedere come va, sentire le sensazioni, e invece track, firma per due anni. È vero, verrà ufficializzato a Jerez probabilmente. Ha detto bene Umberto, lui ha ancora una squadra, ma soprattutto ha ancora un'azienda, perché la VR46 azienda, merchandising, non dimentichiamoci che è un'azienda importante come fatturato, quindi comunque rimanere dentro nel circus è una cosa importante. È un moto mondiale strano quello che riparte, perché Carlo, sai che ho ufficializzato il calendario, scenderanno in campo il mercoledì per provare, quindi effettivamente il mercoledì sera pomeriggio sapremo i valori in campo, perché siamo rimasti agli ultimi test. C'è qualcheduno, qualche team minore che ha provato a Misano, però di ufficiale non c'è niente. È un mondiale dove non si sta ancora Dovizioso dove andrà, perché c'è muro contro muro, non cede, addirittura parlano di ritiro, perché il suo manager Battistella ha detto: piuttosto ci fermiamo, magari anche un anno sabbatico. Sai che l'oggetto del contendere è il contratto, cioè economico, perché Ducati vuole dimezzare, lui invece dice: no, io sono vice campione del mondo. Che però, Robby, c'è dietro anche una, non ti dico sfiducia, però una poca così confidenza, una poca soddisfazione forse della Ducati nei confronti di Dovizioso, perché è economico certamente, però se ti propongono un contratto alla metà vuol dire che in fondo non credono tantissimo nelle tue chance di vincere il mondiale, no? Questo è vero, perché è triste, perché sulla carta, sai, lui prende 4 e dice: io voglio i miei 4 perché me li merito. Ducati dice: è cambiato il mondo. Ma se tu vai a ascoltare per esempio un Pirro e gli chiedi quanto è competitiva quella moto, ti dice: mamma mia, cioè quella moto, con quella moto si potrebbe fare molto di più. Questo è quello che si sente, che si carpisce. Quindi la moto c'è. questa cosa di Ducati che non crede tanto nei suoi confronti, è vero, hai ragione a dire questo. E fa discutere anche il dopo, perché o tirano su Bagnaia, se dovesse fare qualche gara, ipotizziamo un dovizioso fermo, Bagnaia fa qualche gara buona all'inizio, potrebbero tirarlo su e coltivare lui, però deve farlo subito perché è già tanto. Hai anche Miller che ha un'altra scommessa appena arrivato. Esatto, altrimenti si parla tanto di Lorenzo, perché sì, sai che Lorenzo è il cuore di Cigallina, lo vorrebbe, e quindi c'è anche lui nella che gravita, insomma, come ipotesi. È brutto, insomma, però partire così. Siamo contenti, sì, per Petrucci, che ha una moto, perché con KTM rimane nel motomondiale. Lui ha rifiutato la moto ufficiale in Superbike perché voleva rimanere lì, ti ricordi che avevamo accennato. Iannone. Non bisogna aspettare la sentenza, eccetera, esatto, eccetera. Però questa sentenza pare che stia, cioè, forse slitti ancora più in là, insomma, problemi. E comunque Aprilia deve risolvere. E Aprilia ha bussato Crutchlow, perché è uscente da Honda e pare che abbia bussato alla porta di Aprilia. Sì, c'è ancora qualche manubrio da piazzare, no? Ma è curioso, notare come, Umberto, i due piloti in rosso stiano ballando, stiamo facendo la Last Dance, davvero, manco Michael Jordan, Devo dire che la Ducati si è fatta sorprendere, perché avrebbe dovuto andare a prendere un Quartararo, ci ha anche provato, sì, e poi Quartararo ha fatto una scelta diversa, perché se tu non credi nei piloti che hai, vai a cercare chi può rappresentare il futuro, non vai a riprenderti Lorenzo, la bontà che possiamo aver avuto voluto per Lorenzo, però non è che con la Ducati abbia poi lasciato degli ottimi ricordi. Vai a cercarti il giovane migliore che c'è su piazza per cercare il rilancio contro Marquez e la Honda. Quindi questo è stato un fallimento dal punto di vista del mercato della Ducati, credo che non ci siano dubbi da questo punto di vista. Verissimo, perché Ducati ha raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato il potenziale della sua moto, cioè ha sempre sbagliato negli ultimi anni a livello di mercato. Poi mettici anche la sfortuna, però a differenza con l'altra rossa che dicevi, è giusto per i piloti, però la Ferrari non è così competitiva come invece la Ducati lo è nei confronto delle altre moto. Mi capisco. Quindi stiamo parlando di due valori, di due pesi assolutamente diversi. Hai la moto per vincere il mondiale, ma non hai il pilota che può battere Marquez. Questo è un bel casino, miei cari. Grazie davvero. Torniamo ovviamente a parlarne, perché siamo soltanto all'alba di questa stagione pazzesca. Grazie a Roberto Ungaro, grazie ovviamente al direttore Umberto Zappelloni, a Valeria Bernardi in regia, Anita Panizza, Claudia Schiattone. Ci sentiamo dunque. Ci sentiamo domenica, tutti convocati, weekend. Tornerà Giovanni Capuano, ma ci sarò anch'io, per vostra sfortuna, dalle 17 alle 19. Ciao. Venga, è stato una montagna russa. Ciao, Radio 24. Saluti.